veramente è una persona, una figura proprio di uomo che mi è piaciuta tantissimo. Invece Scalfaro, detta così, proprio con assoluta simpatia, però mi pare un po' antipatiquino, ecco, se non può essere dirgliela tutta. Beh, soprattutto con la Lega è sempre stato poco tenero. È antipatichino, perché con noi non è che sia stato... Cioè, il Presidente della Repubblica adesso è il Presidente di tutti gli italiani. Sì. Napolitano, con quelle che sono le cose che ha detto, e le cose che ha detto le ha, detto perché le ha dette perché le pensava, perché si capiva benissimo che diceva esattamente quello che pensava. Ha dimostrato negli anni... ed è per questo che ho rivisto volentieri la mia posizione, di essere, di voler essere, di saper essere il Presidente di tutti gli italiani. Scalfaro invece ha mantenuto purtroppo una certa parzialità nelle sue posizioni, prima, durante e dopo. Senta un attimo, ma insomma, lei è passato dunque a dire è un comunista, io la foto la tolgo, dopo quanto ci ha ripensato? Ma nel tempo, nel senso che nei comportamenti che il Presidente Napolitano ha saputo dimostrare, sia riguardo a, cioè un anno ci ha messo una politica un anno del nostro paese, pensiamo agli scontri con la magistratura che ogni tanto ci sono, insomma, da parte della maggioranza, ma del Premier in particolare, lui non si è mai schierato né da una parte né dall'altra, ma non perché voglia stare in mezzo, perché ha saputo far capire agli uni e agli altri quale sarebbe la giusta misura per risolvere il problema, quindi una riforma della giustizia vera che serva a tutti gli italiani. E in questo l'ha detto sia il Premier, ma l'ha detto anche ai magistrati, lui che è il Presidente del CSM. Il decreto salvaliste, cosiddetto decreto salvaliste... Beh, quella è stata una stupidaggine che, però. Non di Napolitano, dico, il governo poi è stato... No, ma lì Napolitano avrebbe potuto tranquillamente non firmarlo, perché insomma era parecchio stiracchiato quel provvedimento, lo sappiamo. Molto tutti. Stiracchiato. Esatto, e lui proprio per dimostrarsi imparziale, per far capire quello che era il principio suo, poi magari nell'animo di qualcuno della maggioranza il principio era quello di dire mettiamo in lista i nostri del PDL a Roma per farcela, ma invece nell'animo del Presidente Napolitano ha detto c'è un milione di persone che potrebbe non trovare il suo riferimento politico quando andrà a votare, e questo è un fine superiore. Ripeto, avrebbe potuto tranquillamente non firmarlo e nessuno poteva dirgli nulla se non lo firmava, e questa è stata l'ennesima dimostrazione dell'imparzialità di quanto sappia di sopra delle parti. Senta un attimo, ma ripeto la domanda, insomma, lei ci ha messo un po' di tempo naturalmente a maturare, dunque la foto quando è che materialmente l'ha rimessa? L'ha tolta nel giugno 2007? L'ho rimessa quando è uscita quella mia intervista sul Corriere, un mesetto fa, insomma. Un mese fa, cioè roba di adesso, insomma. Sì, quando sono uscito pubblicamente dicendo prendo atto del comportamento correttissimo, esemplare del Presidente della Repubblica. Ma nel frattempo, e dunque ho sbagliato, le dice ho sbagliato a dire quelle frasi, dunque non è comunista, non è comunista. Il giorno dopo... Un politico che dice che ho sbagliato non è... ma guardi, io ho rivisto ben volentieri le mie posizioni, io il giorno dopo le elezioni, Napolitano era un comunista perché la matrice politica era quella, ed è vero che era stato eletto con una forzatura, perché è la prima volta che veniva eletto un presidente con una maggioranza così risicata. Però nei comportamenti ha saputo, nei mesi e negli anni che sono poi passati, da quando appunto io ho detto queste frasi, io mi sono ricreduto volentieri, e ancora più volentieri dopo averlo incontrato, perché è una persona assolutamente splendida. E lo dico da leghista, detto da leghista, credo che vai. Senta, ma in questo, insomma, in questi